Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Le prove i carabinieri le hanno trovate sui social network, dove una baby gang di 10 ragazzini di Vigevano, in provincia di Pavia, diffondeva le foto e i filmati delle violenze e delle angherie che perpetrava nei confronti delle sue vittime. Ciò che è saltato fuori è di una crudeltà e gravità tale che, nonostante la minore età dei protagonisti, i carabinieri hanno arrestato 4 di loro e li hanno portati nell'istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano. Il gruppo, quasi tutti quindicenni, un sedicenne e un tredicenne non imputabile, agiva come un branco contro i coetanei e i vicini di casa. Una, la vittima preferita, era un compagno di scuola, più debole e indifeso di altri, che per mesi e mesi è stato sottoposto a ogni forma di violenza fisica e psicologica che il gruppo di menti depravate riusciva a ideare. Due gli episodi più gravi. Nel primo, dopo aver fatto ubriacare con la forza la loro vittima, l'hanno portata incatenata in giro per la città come un cane e hanno poi diffuso sui social le foto. Nel secondo episodio, il quindicenne è stato denudato, appeso a testa in giù sopra un ponte e violentato. 4 dei responsabili, quelli che hanno agito direttamente in prima persona, sono stati arrestati per concorso in violenza sessuale, riduzione in schiavitù. Questo è un fatto di Vigevano. Questa mattina sull'edizione online del Mattino di Napoli c'è un'altra brutta storia di 11 ragazzini che avrebbero violentato un loro coetaneo disabile psichico, tra l'altro. Beh, come classifichiamo questi fenomeni? Ma il termine che viene più spontaneamente è definirli come appartenenti a una baby gang, però naturalmente probabilmente è un'esagerazione. Si parla molto dell'esaltazione giornalistica rispetto a fenomeni di disagio giovanile o di uscita dalle regole o di criminalità a tutti gli effetti effettuata e svolta da minorenni, come qualcosa che non ha proprio tutta la caratteristica della gang, perché la gang dovrebbe essere qualcosa che ha degli schemi ben organizzati, qualcosa che ha una sua precisa vocazione nel delinquere. Beh, oggi vorremmo chiarirci questo concetto. Voi che ne sapete? Avete sentito parlare molte volte? Apprendere che proprio figlio minorenne è implicato in un fattaccio fa rizzare i capelli sulla testa, si crede di aver sbagliato tutto improvvisamente. È questo il fenomeno, la fattispecie per cui poi ci si trova improvvisamente ad essere genitori di un componente di baby gang? O le baby gang sono fenomeni che si legano a certe aree territoriali in cui è molto sviluppata la criminalità organizzata, che naturalmente sta investendo nelle nuove leve, mentre è molto difficile nel campo della legalità coinvolgere comunque le generazioni giovanili già a prendere responsabilità a quello che sarà il loro ruolo nel mondo del lavoro, nell'antimondo del crimine è molto facile, c'è questa forte attrattiva, il criminale diventa l'eroe, i ragazzini si muovono sull'emulazione del criminale. Questo è un fenomeno di cui si è molto parlato. Leggo una veloce rassegna stampa, vedo allarme baby gang a Cosenza, c'è la lettura di una criminologa che dice sono segnali di ribellione, ma parliamo delle baby gang nel senso classico, organizzato, di diciamo versione minima e ridotta di quello che è un'organizzazione criminale di adulti, o è qualcos'altro? Sono fenomeni di trasgressione giovanile organizzata. A Vigevano abbiamo sentito il caso di Vigevano, è stata presa una baby gang di 15 anni, 4 arresti, abusi, violenze sessuali, coetaneo brutalizzato dal branco. Poi qual è la differenza? Baby gang che agiscono con atti di totale disprezzo di ogni regola della convivenza umana, quindi compiono atti di violenza fine a se stesso, baby gang che già cominciano a organizzarsi il lavoro futuro, quindi già lavorano in quelli che sono i filoni tipici del mercato della criminalità organizzata, quindi nello spaccio la droga, nell'estorsione, in attività che hanno comunque una loro storica strutturazione. Beh, mi piacerebbe che ci confrontassimo con un esperto che sentirete tra poco, ma soprattutto con la vostra esperienza. Che esperienza avete del fenomeno delle baby gang? Ne avete sentito parlare? Esistono alle vostre latitudini, nella vostra città, nel vostro paese? Avete un'esperienza diretta? Qualcuno della vostra famiglia, un vostro figlio, è stato in qualche maniera messo dentro a un fenomeno del genere? Mi piacerebbe sapere e tastare il polso ancora una volta su un argomento che mi rendo conto che è difficile affrontare, ma ci proveremo. 800 24 00 24. Melog, Cronache Meridiane. Veri e propri raid fatti in fretta da un gruppo nutrito di ragazzini che hanno seminato il terrore tra i commercianti della zona Appio Tuscolano, Roma Est. Una violenta baby gang composta da almeno 10 minorenni individuati e fermati dalla polizia. Oltre a rapinare e a prendere d'assalto negozi e bancarelle, aggredivano e picchiavano i malcapitati di turno. Almeno 6 gli episodi contestati, avvenuti quasi tutti lo scorso gennaio. Agivano sempre nello stesso modo, entravano con spavalderia e a volto scoperto nel locale che avevano scelto di saccheggiare. Uno rimaneva fuori a fare da palo, un altro immobilizzava il negoziante e se osava reagire erano botte. In una rapina hanno usato anche un coltello. Dopo essersi fatti consegnare i soldi, si allontanavano velocemente. Raid che duravano non più di 3 o 4 minuti, ma sufficienti a seminare panico e paura tra i negozianti. 12 le ordinanze di custodia cautelare emesse in queste ore. La banda è composta da 10 minorenni e 2 maggiorenni, considerati capi. Ma la polizia ritiene che ci siano anche altri... In questo caso si parla proprio di banda, si parla di organizzazione interna, si parla di gerarchia interna. Questo è il fenomeno più diffuso, questo è il modulo che più conosciamo. Avevo detto che avremmo avuto un esperto e lo salutiamo subito. Marco Bertoluzzo, buongiorno. Marco Bertuzzo è un criminologo, direttore del consorzio socioassistenziale Alba Langhe e Roero. Le faccio la domanda, una mia curiosità. Mi sembra un'area geografica che di tanti fenomeni ci sono, abbastanza lontana, diciamo, dal fenomeno territoriale del baby gang. Come si concilia la sua destinazione d'origine e la sua vocazione a occuparsi di baby gang? Ma in realtà io sono qui ad Alba solo da 2 anni e sono stato... Per molti anni ho fatto criminologo a Torino e in particolare ho fatto un lavoro sulle baby gang con la Polizia Municipale di Torino, abbiamo gestito un osservatorio delle cosiddette aggregazioni giovanili, quindi adesso sono in un territorio molto più tranquillo. Perché territorio di vino e di tartufo e tante cose. Esatto, sì, noi abbiamo anche qui qualche episodio, diciamo, di irrequietezza giovanile, ma nulla a che vedere con le metropoli. Ecco, parliamo subito dal termine lessicale. Quando parliamo di baby gang, definiamo il fenomeno, sennò anche 4 ragazzacci che corrono dietro ai gatti diventano una baby gang. Capiamo cos'è la baby gang? Ma io intanto utilizzerei una differenziazione molto usata in letteratura, cioè tra group delinquency e baby gang. La baby gang è esattamente quello che diceva lei, un'organizzazione con tanto di gerarchia, tanto di linguaggio condiviso, tanto di riti di iniziazione, e ci si rifà dal punto di vista criminologico al modello sostanzialmente statunitense a partire dagli anni 50. Quello dei film che conosciamo tutti. Ecco, esatto, diciamo. E quella sudamericana... conosciuta come Pandia Omara. Omara Salvatruccia, che poi è già arrivata anche in Italia. Bravissimo, sì, che è già arrivata, è arrivata da poco, almeno è stata sicuramente individuata in 2 territori, che è il territorio di Milano e Interland e quello di Genova, per chiaramente un legame con l'immigrazione sudamericana. Lo spieghiamo perché è il fenomeno più interessante in quanto che è un'esportazione in un'organizzazione mafiosa a tutti gli effetti. Sono ragazzi tatuati con dei riti di iniziazione, armati. Sì, li metterei mafiosa tra virgolette, cioè comunque un'attività delinquenziale molto organizzata, diciamo che su un modello della criminalità organizzata nostra, in cui tra l'altro ci sono anche legami spesso con il mondo adulto. Ecco, direi questa strutturazione, cioè questa strutturazione con questa complessità, pur avendo sia il modello americano che nordamericano e sudamericano delle differenze rilevanti rispetto al contesto, ai bisogni delle persone, al clima sociale economico, eccetera, eccetera, ma questa è veramente un'organizzazione criminale, di fatto un'organizzazione molto chiusa, un'organizzazione da cui è difficile uscire, non è una fase transitoria, eccetera. Ma si occupano di attività criminose vere e proprie in quel caso, sì, spaccio di droga, poi, estorsioni. Sì, esatto, quindi con legami anche ai mondi criminali completamente diversi, lontani, più complessi. Ecco, ma in questo caso le baby gang cosa sono, diciamo? Il club giovanile di un'organizzazione criminale di adulti, diciamo. Ma cos'è? Ci sono molto diversi. Io rimarrei su questi dati oggettivi, cioè questa organizzazione che chiamiamo baby gang hanno 3 caratteristiche sostanziali. Una, questa organizzazione ferrea a cui lei richiamava, eccetera, dove ci sono appunto ruoli, funzioni, eccetera, il tipo di atti criminali e quindi dei legami molto intensi anche con i mondi criminali adulti, e terzo, una relazione stretta col contesto sociale economico, quindi si sviluppano in alcune città del Sud America e si sono sviluppate negli Stati Uniti, nelle grandi città, Chicago, eccetera, negli anni 50. Questo nascono legate a diverse etnie che non convivono o si organizzano in questa maniera. Assolutamente, il clima sociale in questo senso, quindi presenze anche di immigrazioni, di migranti, esperienze culturali anche molto diverse. Lei pensi solo a tutta la questione, per esempio, del tema della religiosità delle bande sudamericane, no? Hanno tatuaggi di santi, madonne, utilizzano per esempio segni come quelli, segni simbolici usati anche nelle religioni, eccetera. Quindi c'è un legame forte al territorio. Ecco, in Italia io parlerei di group delinquency. E quindi tutti gli episodi che voi avete citato e di cui in questi giorni si sta parlando, io lo farei rientrare in quel fenomeno lì, cioè di aggregazioni giovanili che hanno questa forte valenza, perché è tipico del mondo adolescenziale di trovare rifugio, protezione, legame rispetto ai coetanei, che commettono poi dei reati gravi sicuramente, come le rapine, in alcuni casi gravissimi come quelli successi, ma in realtà secondo me caratterizzati da una transitorietà. Questi, diciamo, sono... è come i ragazzi della Via Pal dei tempi nostri, sì, bande di ragazzi, allora sì, si pigliavano a sassate e uno ne muore, sì, infatti, esatto. E oggi ecco, magari lei, fanno altre cose. Lei è un giornalista, quindi in questi incontri di professionalità apprezzo questa sua capacità di disegnare questi sfondi, ecco, è esattamente così, ecco. E la transitorietà, perché questi fenomeni, se gestiti bene, infatti io punto molto quando anche mi chiedono confronti sul trattamento, sulla pena da infliggere a questi soggetti, punto molto sul fatto che bisogna aiutarli a rivedere, elaborare il reato commesso, con la speranza che prendano coscienza che è stato un grave errore e che si insista e si investa sulla possibilità di cambiamento. Ma fermiamoci solo un attimo, professor Bertolazzi, un attimo coinvolgere il pubblico se possibile, 800 24 00 24. Molti mi stanno citando i fenomeni di bullismo di cui abbiamo parlato giorni fa. Non è detto che il fenomeno di cui parliamo non sia un'appendice, uno svolgimento del bullismo, però oggi è un po' più mirato. Sono ragazzi che comunque si organizzano non soltanto in ambiente scolastico, anche in ambiente extrascolastico, per compiere comunque atti contrari a quelle che sono le norme, le regole, il buon vivere, la buona educazione e anche le regole del codice. Sentiamo Antonella, buongiorno. Buongiorno. Io faccio una domanda semplicissima ma importantissima. Dico, ma i genitori dove sono? Io mi ricordo, ho qualche annetto, quindi in qualche modo mi ricordo che quando noi eravamo ragazzotti e facevamo del male ai nostri, perché l'abbiamo fatto tutti, insomma, qualche dispetto, qualcosa, c'era qualcuno che passava per strada e ti diceva, smettila, che fai? Vai a casa. Cioè, oggi come si fa a mettere un ragazzo, oltretutto con un handicap, poverino, in catene, farlo passare per strada e nessuno vede? È una lettura giusta la sua. In effetti, nelle letture giustamente trasudanti orrore e sdegno rispetto a questi fenomeni, dov'è il resto del mondo? Lei se l'è mai domandato, Marco Bertoluzzo? Perché è vero, succedono cose del genere, ma non è che lo fanno nel deserto del Sahara o di nascosto. Possibile che nessuno sia mai accorto di questi fenomeni? Esatto, questo oggi è una delle grosse piste di riflessione, quella che io chiamo mancanza di alleanza educativa del mondo adulto. Cioè, chi come me ha superato i 50 anni ricorda che da ragazzo, quando si commetteva, il mondo adulto interveniva, l'adulto per strada, il tuo insegnante, l'istruttore sportivo, il catechista, l'organizzatore. Sì, c'era una catena di controllo, li vedevamo con grande fastidio, ma c'era. No, e ci si sentiva responsabili, il mondo adulto si sentiva responsabile dei minori. Quindi questi interventi si facevano perché ed erano la possibilità di contenere l'evoluzione di questi. Però lei mi capisce, Bertoluzzo, quando oggi un insegnante rimprovera un ragazzo e toglie il cellulare, il giorno dopo gli scrive un avvocato, bravo, la gente ci pensa. Questo. Ed è esattamente tutti in linea, cioè non c'è l'alleanza educativa tra adulti, cioè io padre non sento l'altro adulto come un alleato nell'educazione dei miei figli, ma lo sento come un nemico rispetto al mio nucleo familiare. E la stessa questione, se un insegnante immagina che i genitori siano quelli che ostacolano il suo percorso, ecco, non c'è più quella percezione di alleanza educativa. E questo è il grosso problema oggi rispetto al bullismo, perché se il bullismo è un atto di prevaricazione in cui una persona è più forte di un'altra, che è debole, e reitera una serie di atti dannosi, questo è il bullismo. Lo stesso bullismo era il fenomeno del nonnismo quando esisteva il servizio militare. Ma oggi una delle grandi differenze rispetto a 20-30 anni fa è proprio questo fatto, cioè che il mondo adulto assiste senza intervenire. E uno dei dati impressionanti del fenomeno degli episodi successi a Vigevano è proprio il fatto che a me stupisce che gli adulti, come diceva la persona intervenuta prima, gli adulti non hanno visto. Ecco, questo è impressionante. E oggi questo è un dato preoccupante. Sentiamo Federico. Un secondo. Federico, buongiorno. Federico. Buongiorno Nicoletti. Ascolto. Io vorrei portare la mia esperienza riguardo proprio i fatti di Vigevano. È di Vigevano lei? È di Vigevano? Io sono di Mortara, che è a 10 km, quindi... nel paese dove proprio sono stati beccati questi ragazzi, dove abitano. Ah, perché... così ci può dare qualche testimonianza, che ci domandavamo noi. Come è possibile che abbiano agito senza che il contesto sociale non registrasse questo fenomeno? Allora, sarò sincero, io che sono del paese, che è un paesino di 10.000 anime, non ho mai notato questi fatti. L'episodio del ragazzino tenuto alla catena io non l'ho visto. A me è ad esempio sfuggito. Vorrei però fare subito una puntualizzazione. I giornali hanno parlato tutti di ragazzi di buona famiglia. Non è così. Io la famiglia la conosco, i genitori hanno la mia stessa età, più o meno. Io ho 33 anni e loro ne avranno 3-4 in più. È una famiglia che è sempre stata una famiglia scapestrata, sono in galera, il papà di uno di questi ragazzi è in galera. No, ci porta elementi che assolutamente considero e valuto, è interessante. Molte volte le letture sono affrettate, ci si ferma dietro le formule. Li chiamavano anche la baby gang delle stazioni, perché fermavano, che lei sappia... Perché a quanto pare era proprio nella stazione di Mortara... il luogo in cui sono avvenuti la maggior parte di questi episodi. Si leve, ho qui davanti un articolo, il gruppo è composto da una decina di ragazzi di buona famiglia, figli di professionisti, commercianti, impiegati, operai. Ah boh, se poi fare il ladro è una professione, sì, sono assolutamente professionisti. Professionisti forse dire è fargli un complimento, perché comunque le volte che sono stati beccati, sono stati mandati in galera più volte, sono stati beccati... circostanze di una banalità, di una stupidità, cioè hanno rubato un tagliaerba, un becchietto, sono cose veramente... Queste erano, diciamo, le operazioni criminali erano rubare il tagliaerba e vecchietti, se la prendevano... Rubare il portafoglio al malcapitato di turno in stazione, che comunque avrà avuto 60-70 anni, ma quando erano più... da ragazzino mi ricordo un episodio, ero alle elementari... Il papà di uno di questi ragazzi ha provato anche con me stesso a fare un atto di bullismo, se così vogliamo. Quindi diciamo era una professione familiare, se la passavano i padri e i figli. È figlio d'arte, è tutt'altro che di buona famiglia. Quello che conosce lei, adesso erano tanti. Non quello che conosco io, ce ne sarà anche qualcun altro che a me sfugge il nome. Comunque uno di questi qua, denominato il capobanda, tutt'altro che di buona famiglia, cioè... porta avanti l'attività di famiglia, semmai. Vabbè, allora c'è un fondo di verità sul fatto che fossero anche famiglie rispettabili. Se il capobanda apparteneva a una famiglia, comunque a un'attività imprenditoriale, era una famiglia che non viveva di espedienti come... No, adesso il mio portare avanti l'attività di famiglia era del tutto ironico, quello che ha sempre fatto i genitori. I genitori facevano esattamente le stesse identiche cose. Cioè, le posso portare ad esempio un episodio di una decina di anni fa. Il papà si metteva in centro a Mortara, quando era buio lampeggiava con l'accendino, faceva la scintilla per farsi vedere dalle macchine, faceva finta di farsi dare un passaggio e poi tentava di estorcere denaro. Fermo là Federico, devo dare la linea, resti in linea però, perché visto che sul fatto di Vigevano, che è uno degli episodi più recenti e più articolati rispetto a questo fenomeno, lei ha qualcosa di prima mano e ci racconta che in realtà dietro un rappresentante di gruppo giovanile c'è una famiglia che faceva la stessa attività, insomma, buon sangue non mente, questa è la domanda, fermiamoci un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. A Taormina due turisti passeggiano lungo la centralissima via Pirandello. Un'auto con a bordo si scoprirà una baby gang di scippatori. Si avvicina alla coppia, con scatto repentino e malviventi, tra loro anche una ragazzina, strappano la borsa dalle mani della donna e fuggono a fari spenti a folle velocità, mettendo a rischio la vita dei passanti. Una modalità di azione non nuova per i carabinieri che davano loro la caccia. Turisti italiani e stranieri venivano scippati così, affiancati da scooter o auto, strattonati, derubati con violenza da rapinatori che poi si dileguavano nel buio. Per una 78enne inglese lo scippo si è trasformato in un incubo. 800240024, stiamo analizzando comportamenti criminosi e di uscita dalle regole compiuti da ragazzini organizzati, che possono essere una baby gang, ma abbiamo visto già un fenomeno più articolato, più legato a una vera e propria organizzazione paracriminale, o ragazzini che si raggruppano, come il caso di Vigevano che stiamo toccando, con alcuni con disagi familiari evidenti, come ci ha testimoniato un nostro ascoltatore che è ancora in linea proprio per integrare il suo intervento, altri così semplicemente per il gusto del branco consumano piccoli episodi di banale e sciocca criminalità, se la prendono con gli anziani, con i loro coetanei più deboli, insomma non hanno mai quell'escalation che li arriva a compiere veri e propri atti di crimine assoluto, e lo fanno anche in maniera molto dolorosa per le loro vittime. Abbiamo Lucia, buongiorno. Beh, questa cosa che raccontavate ha fatto venire in mente un episodio, questo succedeva a Buenos Aires negli anni 68, così, e mio fratello, che è disabile, aveva 10-11 anni, e gli stessi ragazzi del quartiere che poi il sabato con cui noi facevamo le feste da ballo, e assediavano mio fratello, insomma, e lo portavano in un garage, però insomma non è successo niente, e poi a un certo punto c'è stata una festa un sabato pomeriggio, e mia madre irrompe in questa festa dove c'erano anche i genitori, facendo una piazzata, mia madre italiana, e una piazzata di quelle che io mi vergognai come una ladra e tutti in imbarazzo, però ebbe il coraggio, facendo questo atto, di interrompere la sevizia del fratello. Esatto, insomma, di rendere, però nessuno parlava, nessuno, io, anche i genitori tutti imbarazzati, tutti, come dire, come se forse nulla. Nessuno era dalla parte di mia madre poi alla fine, in quel momento. Beh, questa è una testimonianza, diciamo, portata nel tempo e nel luogo, un po' fuori dal nostro contesto, però ci dà uno spunto. Marco Bertoluzzo, ricordo che è un criminologo, dirige il consorzio socioassistenziale Alba Lange e Roero. Questo fenomeno della violenza mirata, della violenza anche sessuale nei confronti di persone disabili, in quale codice rientra? Perché l'attività più facile, in fondo, prendersela con la persona più inoffensiva e meno capace di difendersi. E le risulta anche a lei che esista questa sorta di comportamento omertoso da parte delle famiglie? Beh, sì, il tema della violenza è sempre legato alla spersonalizzazione, cioè tutte le ricerche, gli studi e gli interventi ci dicono che io commetto un atto violento solo nel momento in cui spersonalizzo l'altro, cioè gli tolgo delle caratteristiche profondamente umane e non mi rispecchio più nell'altro. Il branco, come avete detto, sicuramente crea complessità nel fenomeno, cioè non si riesce più a sentirsi umani, e quindi è molto più facile prendersela con i più deboli. Questo però è un fenomeno, io non voglio essere, come dire, non preoccuparmi di ciò che succede, però è un fenomeno sempre esistito e dobbiamo sempre, il mondo adulto deve sempre interfacciarsi col mondo giovanile e intervenire preventivamente rispetto a... Ma vorrei capire invece l'evoluzione che c'è stata, data appunto dalla contemporaneità. Quali sono le punte più emergenti e come sta mutando questo fenomeno? Ma intanto oggi col sistema, appunto con l'irruzione da qualche anno di tutto il mondo del web, eccetera, lei capisce che certo, diventa un collante. Il fenomeno del cyberbullismo è certo, perché con l'uso della tecnologia tu non hai più una persona davanti a te, ma hai un nickname, hai un'immagine, eccetera. E quindi nel passaggio che dicevo io prima della spersonalizzazione, chiaramente questo sistema è facilitato. Per cui molto più facilmente, quando tu non hai di fronte la vittima che reagisce, che ti richiama, che si oppone, eccetera, è molto più facile a insultarla, colpirla, denigrarla, eccetera. Quindi questo fenomeno sicuramente ha prodotto dei cambiamenti sul tema generale del bullismo, che torna a dire è sempre esistito, un atto di prevaricazione in cui un forte approfitta di un soggetto debole e reitera una serie di atti nel tempo. Ora, questo fenomeno, pur sempre esistito, oggi ha connotazioni diverse, per cui anche questo fenomeno del silenzio del mondo adulto fa sì che il gruppo si cementi e quindi si contrapponga, perché non ha limiti. Il mondo adulto deve porre sempre dei limiti al mondo giovane. Quindi hanno degli strumenti di coesione e di condivisione, di quelli che sono anche messaggi negativi. Ma non c'è più l'area di controllo degli adulti. Vediamo, lei aveva detto, diminuisce molto, all'inizio della trasmissione, che in realtà è possibile operare un recupero su questi ragazzi, non sono destinati a finire tutti nei ranghi della criminalità organizzata o sporadica. Quali sono queste aree di recupero? Per esempio, al punto, la grossa questione, io dico, guardando al futuro e analizzando, come state facendo voi, anche questi fenomeni, dobbiamo però porre lo sguardo in avanti per chiederci che cosa possiamo fare e cosa si può fare. Intanto bisogna partire dalla pena, cioè chiedersi qual è la punizione giusta e qual è la pena giusta. In questo senso si sta lavorando molto a livello, per esempio, di tribunali minorenni in Italia sul tema della giustizia riparativa, cioè non solo una punizione di per sé che irroga una sanzione o qualche giorno di detenzione, che poi con i minori non ha senso, ma quanto prevedere tutto un percorso che aiuti gli autori a responsabilizzarsi e che arriva addirittura a un certo punto ad incontrare la loro vittima, chiaramente in un contesto protetto, previo un accompagnamento degli operatori, eccetera. Questo però mi rendo conto che presuppone una bella organizzazione, dei bei professionisti e soprattutto un consenso. Si sta facendo. In Italia il Tribunale Minorenni da anni sta lavorando in questa direzione. Il Tribunale Minorenni di Torino, noi abbiamo gestito situazioni, appunto, di group delinquency, di reati di gruppo anche molto pesanti, situazioni veramente. Vorrei farle sentire la telefonata di Cristina, che dà un elemento che secondo me abbiamo già toccato questo tema, ma ci aggiunge elementi di riflessione. Cristina. Buongiorno. Buongiorno. Io insegno in una scuola media e volevo appunto intervenire in merito apportando questa riflessione. Non sono d'accordo sul fatto di generalizzare che l'adulto non intervenga in questi argomenti, perché a scuola noi lavoriamo tantissimo sul disciplinare, sull'educativo, sull'attenzione ai disabili e sulla punizione di quelli che sono gli atti di bullismo. Spesso però noi docenti siamo ostacolati dalle famiglie, noi dobbiamo letteralmente lottare con le famiglie, che ogni volta che c'è un provvedimento disciplinare, anche magari un pochino più consistente, vengono a protestare, a chiedere perché è stato dato, e il primo atteggiamento di molti di questi genitori è quello di partire a spada tratta con la difesa del figlio. A volte addirittura siamo arrivati con genitori che hanno coinvolto avvocati, che hanno scritto lettere a noi docenti. Le faccio un ultimo esempio per darle un'idea. Io 2 giorni fa ho avuto un genitore che è venuto a protestare, a chiedere giustamente come mai il figlio aveva ricevuto un 8 in condotta. Si aspettava probabilmente un 9 o addirittura un 10, trattasi di un ragazzino educato. E io spiego la motivazione che il consiglio di classe aveva seguito, dicendo che il ragazzo comunque è rispettoso fondamentalmente delle regole, ma non partecipa e non è attento ai bisogni di chi gli sta intorno. Se viene messo vicino di banco al ragazzino disabile, il ragazzino disabile ha delle difficoltà, non interviene minimamente. Risposta del genitore: ma infatti ho insegnato io mio figlio a farsi i fatti propri e non capisco proprio come mai voi non sostenete questa mia opinione. Cara mia, cosa devo dire? Non credo ci siano risposte. Le aggiungo un episodio, mi ha raccontato un preside pochi giorni fa un insegnante aveva detto a tutta la scolaresca insieme: non fate stupidaggini, qualcosa del genere, non fate le stupide, erano ragazze. Beh, il giorno dopo è arrivata la lettera dell'avvocato per i danni morali di una ragazza che aveva avuto un forte danno psicologico, aver sentito comunque darsi, anche se collettivamente, della stupida. Lei capisce che di fronte a questo tipo di atteggiamento uno deve alzare le braccia. Cosa vuole fare? Fermiamoci un istante. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Ha soltanto 8 anni uno dei componenti della Baby Gang che seminava panico e terrore tra i passanti nel centro di Napoli. Il piccolo, di nazionalità romena, è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere dislocate in prossimità di Piazza Cavour, il luogo dove il branco, sabato scorso, è entrato in azione pestando selvaggiamente un 15enne ucraino. Il ragazzino è stato prima circondato, accusato in modo del tutto pretestuoso di percorrere spazi vietati, è stato poi violentemente aggredito da almeno 5 minori, 2 napoletani e 3 romeni. Solo il tempestivo intervento di una pattuglia della polizia municipale che proprio in quel allora, momento... Allora, avevo lasciato in attesa l'ascoltatore Federico di una località vicino a 10 km da Vigevano, che ci ha portato una sua esperienza personale rispetto al fatto della Baby Gang di Vigevano, di cui hanno parlato i giornali, la gang delle stazioni che compiva atti di piccola criminalità ma aveva schiavizzato addirittura un loro coetaneo. Vediamo Federico di aggiungere qualcosa a quanto abbiamo detto proprio dalla sua esperienza. Come ha reagito la comunità locale quando è diventata una notizia, quando è uscita sui giornali, quando improvvisamente tutti hanno parlato di quel fenomeno? Hanno preso le distanze, ognuno si è preso la sua piccola fetta di responsabilità per non essere intervenuto prima o per non aver fatto nulla perché ciò non accadesse? Ma guardi Nicoletti, sarò sincero, le poche persone con cui ho avuto modo di confrontarmi su questo argomento si sono semplicemente lasciate andare al commento, hanno detto vabbè, è proprio figlio di quello là, ecco, detta così in parole povere. Quindi la percezione locale di questo fenomeno, che è stato trattato in varie maniere giornalisticamente, quella dice, era tutto già scritto, conoscevamo il padre, conosciamo il figlio, da lì nasce tutto? Sì, anche se penso che tutti, ma io per primo non mi sarei mai aspettato degli atti di una simile crudeltà e viltà. Infatti a tal proposito stavo riflettendo proprio poc'anzi sul fatto che mi pare che questi episodi, questo fenomeno del bullismo stia evolvendo in peggio, perché c'è sempre stato, ma almeno io non sono mai arrivato a sentire addirittura di abusi sessuali omosessuali, senza nulla avere contro, ma questa è l'evidenza dei fatti. Beh, diciamo, probabilmente oggi è più facile sentirne parlare. Gli abusi dei ragazzi su ragazzi sono sempre stati fatti, cioè c'è una vasta letteratura in proposito, che oggi si parla, oggi poi hanno nomi, classificazioni, categorizzazioni. Comunque, intanto grazie Federico. Tommaso, sentiamo Tommaso. Buongiorno, dottor Nicoletti. L'ascolto. Senta, io volevo raccontare un po' la mia esperienza. Praticamente, quando andavo alle elementari a Prima Valle, sono stato praticamente oggetto da parte di un bullo, e siccome all'epoca... Era la vittima di un bullo. Sì, ero diventato una vittima, anche perché io ero un po', diciamo, vivevo una condizione un po' particolare, quindi ero il soggetto debole in quel momento. Però notavo che l'insegnante, praticamente la maestra in questo caso, era molto attenta e vedeva questa cosa. E quindi praticamente non intervenne subito, però dopo un po', praticamente, quando le cose peggiorarono, infatti il bullo praticamente arrivò al punto di picchiarmi, allora a quel punto... Quanti anni aveva allora Tommaso? Proprio? Io avevo una decina di anni. Ah, proprio bambini piccoli eravate? Sì, andavamo all'elementare. Il suo bullo era coetaneo? Il bullo che la bullizzava? Sì, praticamente lui era dentro la stessa scuola che io frequentavo, nella stessa aula in pratica. Ecco, però era un atto singolo, non era spalleggiato da un gruppo di altri ragazzi, non era una gang. Beh, tutti avevano paura di lui perché era di stazza grande, quindi era il più grosso di tutti. Sì, sì. Ma io volevo dirle una cosa, che questa cosa che poi l'ho notata nel corso del tempo, io vedevo l'insegnante però che la sua era un'autorità, lei si presentava come un'autorità ai suoi alunni, non autoritaria, quindi quando praticamente lei entrava e parlava, noi non è che avevamo paura, però ci sentivamo in un certo senso protetti. Quando lei praticamente vide che il bullo aveva preso il sopravvento, lei faceva i suoi determinati passi, quindi dopo aver considerato la cosa insieme al preside, lei pensi che il preside, quindi chiamano i genitori praticamente non si presentarono, insomma non cercarono di prendere in mano la situazione, il preside fece una cosa veramente secondo me giusta, cioè si rivolse alle autorità. È vero che poi continuarono le minacce da parte del bullo, però io ho notato che sia l'insegnante che il preside praticamente mi seguivano sempre, cioè non mi abbandonavano mai. Quindi c'era stata un'azione, diciamo, di recupero e di salvaguardia precisa da parte della scuola, quindi il sistema c'era, sì, per evitare di degenerarsi. Sì, funzionava, sì, però dopo, quando ho cambiato scuola e mi sono trovato con altri professori, ho notato la diversità. Quindi, senza generalizzare, per carità, però la cosa che secondo me noto è che il professore, l'insegnante, la sua autorità è fondamentale. Se lui riesce a instillarla negli alunni, io credo che quegli alunni impareranno in un certo senso una sorta di disciplina. Fermo là, Tommaso. Sentiamo Paola. Paola può integrare quello che dice Tommaso nell'ultimo minuto, perché mi sembra che sia il suo argomento. Sì. Io volevo dire questo, si parla sempre della contrapposizione tra genitori e scuola, perché c'è in effetti questa contrapposizione, però la scuola dimentica molto spesso che deve far capire ai genitori quello che lei fa. Io ricordo che quando insegnavo la mia prima preoccupazione era cercare di far capire le mie linee educative, formative alle famiglie. È vero che le famiglie sono riottose, che magari non frequentano le riunioni, ma se si accorgono, se si passa la voce che la riunione è stata interessante, che è coinvolgente, i genitori arrivano al 100%. Però fino a quando la scuola pensa di stare in un suo mondo e i genitori nel loro mondo, in una comunicazione che arriva solo attraverso le note, attraverso la punizione, improvvisamente così, la reazione della famiglia non può essere che quella. Abbiamo capito perfettamente, la sigla ci porta via. Abbiamo iniziato cercando di definire quello che era un problema che sembrava emerso a delle cronache, siamo finiti a parlare del solito argomento che non si comunica tra scuola e famiglia. Dov'è la famiglia? Dov'è la scuola? È proprio questo il problema. Ho un punto interrogativo, non sono molto convinto. Alla prossima.